Simone Raghianti, che già abbiamo conosciuto, la direzione di Paolo Bolpani, uno dei curatori storici dell'arte, che in conversazione con il Breakfast Club, amico di Radio Città Fugico per la rubrica In Mostra, si ritrova in scena a teatro. E sì, perché il protagonista è Giacomo Puccini. Allora, come ho detto in precedenza, ho pensato di unire le due cose. Del resto, l'intersezione dell'arte va da sé. Lo stesso grande compositore ha avuto la passione per la fotografia ed è in maniera assolutamente originale che questa ricerca va poi a trovare anche la modalità di ispirazione nella sua più consueta attività operistica. Ne ho parlato con lo stesso Paolo Bolpani, che oltre che direttore della sede espositiva ne è anche organizzatore e curatore, per cui ne sono rimasto molto affascinato ed è un'occasione in più per portare anche l'opera all'interno della rubrica In Scena. Parleremo in approfondimento delle caratteristiche di Puccini con Gabriele Evangelista. Lui è stato creatore e conduttore del format Un tocco di classico per Radio Città Fugico, per cui insomma, visto, sarà un motivo, come dico, il Breakfast Club mi dà la possibilità di imparare e in questo caso ne ho tanto bisogno. Intanto ascoltiamo le parole di Paolo Bolpani per quanto riguarda l'immagine, il colpo d'occhio di Giacomo Puccini. Troviamo Paolo Bolpani, che ne è il direttore. Buongiorno Paolo. Buongiorno William, è un piacere sentire te e avere gli ascoltatori ormai consueti. Anche da Bologna, ascolta, vedi che abbiamo... Infatti. Arriviamo anche nella città felsinia da Lucca. Fondazione Raghianti, una ricorrenza importante, centenario dalla morte del grande Puccini, che abbiamo scoperto ha una passione, aveva una passione, insomma... inaspettata, almeno per quanto mi riguarda. Di che si tratta, Paolo? Si tratta della fotografia, ma è una passione davvero rimasta ignota fino ad oggi e che Giacomo Puccini abbiamo scoperto grazie alle investigazioni nell'archivio di Torre del Lago, gestito dalla Fondazione Simonetta Puccini, appunto, che Puccini praticava con grande intensità, competenza, capacità. È rimasto un fondo di oltre un migliaio di foto, ben oltre un migliaio di foto, e quindi l'abbiamo esaminato e, trascegliendo tra le più originali, le più riuscite, le più belle, ne è emersa, ne è saltata fuori la mostra che abbiamo inaugurato pochi giorni fa alla Fondazione Raghianti di Lucca. Quali sono i temi, i soggetti preferiti dal maestro? Puccini è un fotografo soprattutto naturalista e a volte ci sono anche foto in cui ci sono presenze umane, ma la presenza umana è sempre, come dire, subordinata a quella della natura, al paesaggio. E i luoghi da lui più fotografati sono quelli cari alla sua esistenza, quindi Torre del Lago, dove ebbe per tanti anni la famosa casa dove tuttora riposano le sue spoglie e dove abitò a lungo, Viareggio, Chiatri, che sta sulle colline tra Viareggio e Lucca, l'Abetone in montagna, Ansedonia in Maremma, insomma proprio i luoghi della sua amata Toscana. E poi le foto dei viaggi, e quindi il viaggio in Argentina nel 1905, quello in Egitto nel 1908, quello a New York nel 1910, più a ritroso quello a Parigi nel 1898. Sono sostanzialmente i due grandi filoni della produzione fotografica di Giacomo Puccini. Thank you. su questa suite appunto dei Cinematic Orchestra. Restiamo a tema con le composizioni, seppur siamo nel contemporaneo, nell'elettronico tra il soul e l'ambient. Daremo poi una colonna sonora più adeguata per quanto riguarda la passione di Giacomo Puccini in commemorazione dal centenario della sua scomparsa. La Fondazione Raghianti porta un valore aggiunto, cioè le immagini di un Puccini fotografo. Siccome, come ho detto più volte, non sono molto ferrato su tutto ciò, io conosco la Turandot, ecco, ma c'è tanto di più. Ho chiamato Gabriele Evangelista, creatore di un format che è stato su Radio Città Fugico, Un tocco di classico. Trovandomi con Gabriele ho dato appunto a lui l'informazione che avrei parlato di Giacomo Puccini, e da lì siamo partiti con una deriva assolutamente molto interessante che vorremmo far conoscere anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fugico. Intanto buongiorno Gabriele. Buongiorno William. Grazie della disponibilità e di quest'alzataccia, ecco, se vogliamo. Però dai, sono le 8 e 18 minuti, direi che ce la possiamo fare. Per quanto riguarda questo grande compositore, subito tu hai accoppiato, per così dire, e mi hai zittito giustamente dicendo: ma come, Giacomo Puccini è un grandissimo? Quando parliamo di determinate opere possiamo parlare di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini. Perché questo binomio, quali attinenze e quali diversificazioni tra di loro, Gabriele? Dunque, guarda, come ti ho detto, Puccini è il compositore più rappresentato nei teatri lirici di tutto il mondo dopo Verdi. Dopo Verdi viene Puccini. E anzi, mi è venuta in mente una cosa. Anni fa, un piazzone che voleva fare proprio il piazzone gli fece infatti questa domanda insulsa, mi disse: Verdi o Puccini? E io dissi: tutte e due. Certo. Gli fissi capire l'assurdità della domanda, proprio, che è una questione più di gusti personali. Comunque, certo che l'ombra di Verdi era un qualcosa di imprescindibile per qualunque compositore italiano che fosse vissuto in quell'epoca, perché adesso intendiamoci, Verdi è del 1813, Puccini è del 1858. Quindi quando Puccini ha cominciato a operare, Verdi era ancora operoso e ben presente, quindi era un qualcosa che non potevi ignorare. Sì, infatti. Esatto. Aggiungiamo anche le caratteristiche di Puccini, perché mi hai parlato di una scrittura musicale molto avanzata e con delle caratteristiche ben precise. Ci puoi dire qualcosa di più? Dunque, è stato giustamente sottolineato che Puccini comunque aveva un senso sinfonico dell'orchestrazione molto spiccato e trattava anche le voci in una maniera particolare, cioè come proprio strumenti dal punto di vista anche sinfonico, strumenti aggiunti, perché è da notare una cosa: l'orchestrazione di Puccini è molto ricca, piena di effetti, molto anche potente, sonora, eppure non prevarica mai le voci, ma anzi le sa sostenere in maniera veramente ammirevole. Però indubbiamente Puccini è stato appunto un innovatore, anche perché aveva l'intelligenza di tenersi aggiornato su quanto succedeva nel resto del mondo, quindi seguiva tutte le novità, non sempre le apprezzava, però si teneva costantemente aggiornata, aveva le antenne ben dritte e soprattutto le sapeva assimilare facendole proprie, appunto, in una maniera sempre originale, senza mai copiare pedissequamente ciò che si faceva altrove. E comunque Puccini era anche, da un lato, appunto, vedi, è stato anche vittima però del cosiddetto puccinismo degli stenterelli, cioè vedi, Puccini era anche un grande creatore di melodie, quindi a un certo punto è stato vittima di una sorta di, diciamo, di corrente interpretativa che lo interpretava appunto sempre in chiave molto langurosa, zuccherosa, diciamo saccarinosa, più pop, ecco, sì, esatto, perché comunque Puccini, vedi, era un innovatore, ma era anche, sapeva comunque comunicare col pubblico, aveva un senso teatrale infallibile, per cui per parecchio tempo la critica lo ha snobbato, la critica musicale, lo vedeva come un musicista facile, ruffiano, sì, di cassetta, eccetera, quindi non andava oltre, diciamo, e purtroppo la colpa era anche molto spesso degli interpreti, cantanti e direttori che lo inquadravano in questo modo. Sì, ascolta Gabriele, io ti invito a restare in diretta con me perché stai dicendo cose estremamente interessanti che non conoscevo, che mi affascinano tantissimo, e ti aggiungo, come ti ho anticipato, che una passione di Puccini, e neppure tu lo sapevi, perché hai detto ma come, Puccini ha la passione della caccia, la passione anche delle belle donne, non sapevi della fotografia, e invece è stato... Puccini era, mi dissi che era un fotografo, sì, anche. Sì, sì. Ah. E infatti con Paolo Bolpagni della Fondazione Raghianti è stato portato oltre che in scena in mostra. Ascoltiamo due minuti del direttore, appunto, della rassegna fotografica dove protagonista è Puccini. Se puoi restare in linea, tra pochissimo riprendiamo e aggiungiamo anche contenuti interessanti per quanto riguarda una visione estesa in cui era inserito Puccini. Quante opere troviamo in mostra? Nella mostra le opere sono una novantina, e poi c'è anche un album fatto proprio da Puccini, un album Kodak dell'epoca, per foto in formato panoramico, perché finora non l'ho detto, ma Puccini fotografava per lo più in formato panoramico con una macchina fotografica che esponiamo, perché delle varie macchine fotografiche che sappiamo Puccini possedeva se ne è conservata una, che è appunto una Kodak panoramica entrata in produzione nel 1899, e la esponiamo insieme con le foto stesse e con quest'album. Il percorso in mostra è suddiviso in sezioni e con che modalità? Sì, è suddiviso in sezioni, con si apre con questo album aperto, così anche per darci un'idea quasi domestica dell'utilizzo che poi Puccini faceva di queste foto, anche perché nell'album mise evidentemente foto alle quali si sentiva particolarmente legato, delle quali era molto orgoglioso. C'è poi la sezione sui luoghi di Puccini, poi c'è la sezione sui viaggi di Puccini, e poi, dato che fino a questo momento la mostra è stata basata su Puccini fotografo, perché del resto questo è il tema della mostra, per chiudere c'è anche una piccola sezione su Puccini fotografato da altri, con una selezione degli scatti, di alcuni tra gli scatti più belli, originali, suggestivi e anche meno visti dell'amplissima ritrattistica pucciniana. L'esposizione ha anche una colonna sonora, c'è qualcosa di rimando? Allora, ci abbiamo molto riflettuto, ma alla fine abbiamo preferito di no, perché diciamo che per certe fotografie sarebbe stata adatta una certa musica di Puccini, per altre fotografie ne sarebbe stata adatta un'altra, e quindi avere soltanto una colonna sonora fissa avrebbe rischiato per stonare con alcune fotografie. Quindi la scelta è che gli appassionati di Puccini immaginino la melodia guardando ogni determinata fotografia, perché è davvero una produzione anche molto variegata, che va dall'intenso lirismo all'ironia a volte. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. bacio scioglierò il silenzio che fa me. Mi trema un po' la voce perché ovviamente qui siamo davanti a tutti i tempi e finalmente il principe Calap vedrà l'araldo della principessa Turandot dichiarare la sua vittoria. Gabriele, ci sei? Sei rimasto anche tu estasiato da questa interpretazione? Oddio, lì non sarei tanto d'accordo, perché nel senso, vedi, un po' proprio... Vedi, io sono molto più immediato, proprio perché, sai, essendo... Vedi, per noi Nessun Dorma Migliore l'ha inciso Pavarotti, ma non quando era il tenorissimo, prima che fosse il tenorissimo, nella celeberrima incisione DEC del 73 con Zubin Mehta, quella che è tuttora l'edizione di Turandot discografica di riferimento, insuperata sotto tutti i punti di vista. Qui abbiamo Beniamino Gigli. Io ho portato Beniamino Gigli per quanto so riguarda... perché me l'avevi detto. Infatti è stato un interprete, certo, storico. Dal punto di vista vocale nulla da dire, diciamo che dal punto di vista interpretativo è più datato, cioè, sì. Certo, avercene oggi di voci così, quello senz'altro. No, dicevo che ha influito anche il passare del tempo in queste sacrosante critiche che stai portando. Questo indubbiamente è qualcosa che dà un cambiamento a qualcosa che resta mitico. Sì, perché vedi, una volta a me Puccini non piaceva, cioè proprio perché forse sentivo queste esecuzioni molto più core in mano. Quando ho cominciato a sentire delle esecuzioni che ne esaltavano gli aspetti più moderni e innovativi, improvvisamente ho cambiato idea. Ho capito. Beh, certo che quando se ne ha una passione e una competenza così, determinati aspetti arrivano assolutamente più diretti. Allora, continuiamo in questa nostra piccola biografia emotiva. Si chiacchierava piacevolmente e ti ho chiesto, ma quante opere ha composto Puccini? Diciamo una decina se consideri il trittico come un corpo unico, perché sono tre atti separati. Se invece le consideri anche quelle del trittico separatamente, arriviamo alla dozzina. Ecco, questi sono i titoli di Puccini, né uno di più né uno di meno. Ma ha incuriosito molto un titolo che adesso non voglio avere lo svarione perché ero molto stanco quando abbiamo fatto conversazione. La ragazza del West. No, la fanciulla del West. La fanciulla, vedi che intanto. Però è un titolo molto particolare. Sì. E infatti non è il più popolare fra quelli di Puccini, proprio perché è quello in cui lui l'innovazione la conduce a livelli molto più avanzati, tant'è che persino uno dei più celebri discepoli di Schoenberg, Anton Webern, l'apprezzava parecchio proprio per le soluzioni armoniche molto audaci. Innanzitutto poi in quest'opera Puccini elimina quasi completamente, direi, il testo chiuso. È un flusso continuo, dal ritmo persino cinematografico. E poi mi è venuta in mente una cosa che non ti ho detto l'altro giorno: l'uso che Puccini fa del coro in quest'opera. Che il coro non è un unico omogeneo. Il coro rappresenta i minatori, ma è un insieme di singoli personaggi. Inoltre in quest'opera hanno un'importanza fondamentale anche i personaggi di contorno, che non sono così semplici comparse, ma insomma contribuiscono parecchio alla riuscita dell'insieme. E quindi questo proprio è un'opera che è molto particolare sotto parecchi punti di vista, appunto. Sì, certo. E adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, rientriamo e poi magari parliamo di Puccini e il rapporto con il pubblico di allora, la situazione che si trovava all'epoca e l'approccio a tutto questo, la relazione. Intanto io ti ringrazio, Gabriele, mando un po' di musica, andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo tra immagini e musica dedicate. No, io ti direi, guarda, che puoi prenderti un attimo di respiro, dopodiché ci sentiamo dopo la pubblicità e continuiamo questo percorso tra immagini e note dedicate. No, ma voglio dire, devo rimanere oppure? No, puoi attaccare tranquillamente, guarda, ci sentiamo a breve, tra 5 minuti, ok? Va bene, ciao. A tra poco. Gabriele, nella sua originalità, è di una competenza sulla musica classica e sull'opera, e io, essendo per natura un curioso in quello che non conosco, spesso mi fermo a chiacchierare, chiedo cose, particolarità, insomma. E in occasione di questa esposizione a Lucca, la commemorazione del centenario dalla scomparsa di un grandissimo Giacomo Puccini, mettiamo insieme le diverse sensazioni, grazie a Paolo Bolpagni per quanto riguarda la curatela di questa mostra, un Puccini fotografo, e quindi nella seconda parte della rubrica, oggi edizione straordinaria, in scena ne sapremo di più. A tra poco. Tornando in diretta su questo speciale a 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, saluto anche il mio fratellone Sergio Fanti, che a sua volta scrive un saluto ave a Gabriele Evangelista, profondo conoscitore degli anfratti riconditi della musica colta, e scatta l'applauso. E poi aggiunge, dedicato a me ovviamente, beh, chi porta Beniamino Gigli è un buzzurro, non so, è come chi cita nel basket Bill Russell, ma no, è un minore, ecco per dire. Quindi nella conversazione con Paolo Bolpagni, curatore e direttore della Fondazione Ragghiante, abbiamo trovato anche una forte ironia nelle immagini, nella fotografia, insomma nel personaggio Puccini, che non ci aspettavamo anche come un fotografo così eterogeneo e così variegato nei contenuti, ma è bello trovare intersezione artistica. Ma ora con Gabriele Evangelista parliamo anche di rapporto con il pubblico. Era considerato dal pubblico Gabriele Puccini una figura, un idolo, tipo un cascate di applausi, standing ovation, grandi emozioni? Com'era il rapporto col pubblico? Oddio, diciamo generalmente buono, però con dei distinguo, perché effettivamente quando Puccini osava non sempre il pubblico lo capiva. Ti faccio un esempio proprio riguardo al trittico. Il pannello centrale del trittico è la Suora Angelica, che è un dramma intimistico ambientato in un convento. Tra l'altro Puccini, per entrare meglio nell'atmosfera della storia, andò praticamente a soggiornare per qualche tempo in un convento dove c'era sua sorella che si era fatta suora. Quindi Puccini rimase lì per qualche tempo mentre componeva la Suora Angelica, proprio per entrare meglio nell'atmosfera. Bene, in questo atto unico c'è un'aria, l'aria dei fiori, che sovente viene tagliata. E lo stesso Puccini si rese conto che era troppo moderna per il gusto del pubblico di quell'epoca. Infatti c'è stato addirittura un direttore italiano, Gianluigi Gelmetti, che in un'intervista radiofonica, anche in questo caso, tirò in ballo persino Webern, perché effettivamente è un'area in cui Suor Angelica praticamente inneggia a questi fiori, da cui lei poi ricaverà un decoppo con il quale si avvelenerà. Quindi veramente un'aria molto, diciamo, inquietante anche armonicamente. Io una volta parlai con un giovane direttore che la doveva andare a dirigere a Denver in America, e gli chiesi proprio come si sarebbe comportato con quest'aria. Lui mi disse che la tagliava perché secondo la scusa ufficiale è che rallentava l'azione teatrale. In realtà è vero il contrario, la prepara, cioè ti prepara ancora meglio a ciò che sta accadendo. Però evidentemente, appunto, è un'aria che tuttora crea dei problemi, perché effettivamente l'ho sentita, è molto moderna per l'epoca. Quindi quando Puccini osava, poi come ti ho detto anche La fanciulla del West, sì, è apprezzata, è rappresentata, ma lo è meno di altre opere. Poi ci sarebbe anche da parlare del fiasco pilotato della prima versione della Madama Butterfly. Ah, un fiasco clamoroso la Madama Butterfly. Sì, sì, ma pilotato. In che senso? Perché c'era di mezzo anche la Clac, pagata dall'editore Sonzogno, che era il concorrente di Casa Ricordi. Poi c'era di mezzo una storia d'amore di Toscanini con la cantante protagonista della prima, che credo si chiamasse Rosina Storchio, insomma. Quindi c'era, e lo stesso Toscanini che si era espresso quella volta piuttosto negativamente riguardo a quest'opera. Quindi diciamo che fu un fiasco pilotato, perché poi ci fu una successiva rappresentazione a Brescia qualche mese dopo con l'opera già un pochino riveduta, e le cose andarono molto meglio. Poi ci fu una terza versione, quella di Parigi, perché gli fu commissionata da un impresario parigino, in cui ci furono altri tagli, aggiustamenti e aggiunte, ed è quella che si esegue abitualmente. C'è da dire che poi ci sarebbe una quarta versione, quella che Puccini fece nel 21 con alcuni ritocchi per una rappresentazione al Teatro Carcano di Roma, in cui reintrodusse anche alcuni elementi della prima versione, perché lo stesso Puccini considerava Butterfly che non avesse ancora raggiunto una forma definitiva, per cui se fosse vissuto ancora probabilmente ci sarebbe ritornato sopra. Sì. Però comunque il fiasco della prima fu un fiasco pilotato. Certo, ecco, c'era qualcosa dietro tra il gossip e l'aspetto commerciale. Ecco, esatto. Chiamiamolo così per tradurla in termini moderni. Gabriele, esatto. Veramente sei un'autorità in tutto ciò. Io ti ringrazio per questo per queste informazioni che hai portato all'interno del Breakfast Club, che andiamo a corredare portando in scena questa rassegna fotografica dedicata al grande Giacomo Puccini. Io ti saluto, ti auguro una buona giornata, mercoledì ci vedremo, in qualche modo ricambierò a questo tuo contributo che hai portato al Breakfast Club, e ti auguro una buonissima giornata. Grazie Gabriele. Anche a te. Grazie, grazie caro. Di tutto. Grazie a te, ciao. Ciao. No, potrebbe andare avanti a oltranza, eh? Cioè, io mi incanto a ascoltare queste cose. No, ma poi sui librettisti, sull'approccio invece dalla parte del pubblico, non dell'artista, sul pubblico, ma che pubblico c'era, quanto influiva sui momenti storici tutto ciò. Insomma, ve n'è da parlare, come ho detto, soprattutto con chi ne ha questa passione. Quindi grazie a Gabriele Evangelista del progetto Radio Estensioni di Radio Città Fujiko, e noi concludiamo con questo aspetto che ci porta sia in scena ma anche in mostra a Lucca, Fondazione Ragghianti, con Giacomo Puccini, curatela Paolo Bolpagni. E infatti mi hai parlato e anticipato il motivo di conversazione successivo, che è quali emozioni poi ritrovando davanti a questa intersezione tra il maestro e il motivo di immagine. Sì, infatti sono vari sentimenti, diciamo, quando ritrae la natura e soprattutto la natura dei propri luoghi cari, Puccini è molto spesso lirico, si avverte proprio un'immedesimazione con quel paesaggio, soprattutto del lago di Massaciuccoli o del mare. Mentre in altri casi ha uno sguardo diverso, per esempio durante i viaggi Puccini non scatta mai foto ricordo in stile, come dire, più banale ai monumenti. Quando va in Egitto uno si aspetterebbe cosa potrà mai fotografare in Egitto, le piramidi, la Sfinge? No, fotografa tutt'altro, fotografa le persone del luogo, paesaggi brulli, poveri villaggi di abitanti del luogo, oppure fa un ritratto fotografico, uno dei non numerosissimi, la moglie, ma la fa sedere su un sarcofago. Non sappiamo se lei fosse consapevole, come dire, della componente anche ironica di questa ripresa. E quindi sono sentimenti diversi, ma molto suggestivi, per esempio, i sentimenti che ci comunicano le foto scattate dal transatlantico. Ovviamente per andare oltreoceano allora si prendeva il transatlantico. Ce ne sono alcune dove Puccini scende ai piani più bassi della nave in terza classe e fotografa i poveri che stanno affrontando quella traversata, con finalità diverse da quelle di Puccini e con comodità infinitamente minori. Beh, ci piace pensare che la moglie di Puccini è stata paragonata alla bellezza di una Cleopatra, dai, piuttosto che... Diciamo così. Molto diplomaticamente. Esatto. Quindi l'esposizione è in mostra fino al... Fino al 1° aprile, è una mostra che non dura molto, ma non dura molto per una ragione ben precisa, perché queste fotografie sono tutte originali, non ci sono ristampe moderne, sono vintage, per usare un termine tecnico, e quindi, essendo così delicate, non possono stare alla luce per più di un mese e mezzo circa. Quindi, avendo aperto il 15 febbraio, non potevamo andare oltre il 1° aprile, veramente per ragioni conservative, perché sono materiali preziosissimi, mai esposti prima, ma anche molto fragili. Provenienza delle opere? Le fotografie provengono per la quasi totalità dall'archivio Puccini, che è gestito e posseduto dalla Fondazione Simonetta Puccini di Torre del Lago, ma ci sono anche alcune fotografie prestate dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e alcune provenienti da collezioni private. Però diciamo che il 90% dei materiali viene dalla Fondazione Simonetta Puccini di Torre del Lago, che è la grande depositaria dell'archivio Puccini. Paolo, io ti ringrazio tantissimo per questa bella conversazione e appuntamento a un altro motivo di incontro in mostra del Breakfast Club. Grazie. Grazie, molte grazie a te e a chi ci ha ascoltati. Seguite Fondazione Raghiante. A parte che Lucca è una città, che dire, stupenda è sottovalutarla, città bellissima, e oltretutto con questa sede espositiva curata da Paolo Bolpagni, che più volte abbiamo portato come co-conduttore a In Mostra, quest'oggi lo troviamo in scena. In scena che termina qui. L'appuntamento con la prima colazione in diretta va a lunedì con i consueti magazine. Vi auguro un buonissimo weekend. Per chi resta in ascolto, Jazz Live dalle 11.30, quest'oggi anche con una specificità: Crossroad Jazz Festival edizione 2024, è la 25esima edizione, e poi partiremo con il programma completo in tutti i sensi al Torrione di Ferrara, che inizia già da questa sera. Io vi ringrazio per l'attenzione, ve l'ho detto, edizione straordinaria in scena quest'oggi dedicata a Giacomo Puccini. Vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fugico, e con un caloroso abbraccio mi congedo a voi. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana.